Il punto di Stefano Folli. Si continua a votare nelle Camere riunite per i due giudici della Corte Costituzionale e si continua a fallire l'elezione. È uno stallo che immiserisce il Parlamento e danneggia non poco anche la credibilità della Corte stessa, ma soprattutto getta un'ombra ulteriore su quel famoso patto fra Renzi e Berlusconi di cui tanto si discute e che dovrebbe dare stabilità alla legislatura. Il patto esiste, ma finora è servito solo a votare in prima lettura la riforma del Senato e a garantire, non sappiamo ancora quando, una certa legge elettorale meritevole peraltro di forti correzioni. Per il resto c'è da domandarsi a cosa serva questo controverso accordo se non riesce nemmeno a favorire l'elezione di due giudici costituzionali. Senza dubbio tutela Berlusconi sotto molti aspetti, tutti lo hanno capito, ma se non svolge la sua funzione, diciamo così, istituzionale, si crea un'anomalia piuttosto grave, soprattutto in un momento in cui non ci si può permettere di restare incagliati in questo modo, considerando le priorità economiche di cui ha parlato Renzi ieri, proprio in Parlamento.